Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Due grandi grane querel, discussione, dibattito che riguardano la scienza. Incominceremo con tutta la vicenda dell'area ex Expo e di quello che ci deve andare dentro, centri di ricerca, università, insomma stanno litigando tutti. Ecco, e poi continuiamo con un tema caldo, molto dibattuto, che è appunto la Xylella fastidiosa, che è questo batterio che sta colpendo gli ulivi del nostro Salento. Ecco, torneremo a parlarne. Anche lì si discute. Partiamo subito. Massimo Inguscio, presidente del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è qui con noi questa sera. Buonasera Inguscio. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, presidente, noi l'abbiamo chiamata a Mebius per discutere di questa vicenda dello Human Technopole, che però probabilmente molti conoscono come quell'insieme di centri di ricerca che arriveranno sull'area ex Expo. Si parla ovviamente dell'IT di Genova, da cui è iniziato un po' tutto, poi ci sono le due università milanesi, ci sono centri di ricerca e anche di terapia come lo IEO, l'Istituto Europeo per la Ricerca contro il Cancro. Ci sono una serie di attori che non sono ancora stati completamente definiti, non solo milanesi a quanto sembra, e però intorno a questa vicenda, che vede un investimento da 150 milioni di euro, quindi qualcosa di abbastanza significativo, è venuto fuori un dibattito impressionante, molto caldo, molto forte. Le dirò che Chiara ed io, insomma, che seguiamo la ricerca da parecchio tempo, siamo rimasti un po' stupiti e anche amareggiati, perché insomma, cosa ne pensa lei? Ci sembra che sia venuto fuori un dibattito un po' troppo sopra le righe, con anche una perdita di misura, insomma, per chi fa scienza, tra l'altro la misura è una cosa importante. Come vede lei questa cosa? Che io sono fra quelli che non sono mai intervenuti in questo dibattito, se non per parlare appunto del CNR. Sa, e a volte la passione per la ricerca può far andare sopra le righe. Posso però dirle che poi, come dire, chiacchierando con le persone, discutendo, tutto si riesce a mettere, diciamo, a posto, lei dice. Si acquieta, no? In tutte le scienze, quindi quelle che verranno trattate dallo Human Technopole, ma poi devo dire anche nelle scienze sociali, in qualche maniera vigono le regole universali della termodinamica. La termodinamica dice che poi c'è un bagno termico dove tutto appunto termalizza, quindi ci sono, come dire, gli spikes, le impuntature, diciamo, i segnali, diciamo, i picchi veloci, i picchi, sì. Poi alla fine, insomma, tutto termalizza in una, certo, come dire, discussione, sì, l'entropia, ecco, io credo che ora si stia arrivando, o auspico, ecco, che si arrivi a una discussione più matura in cui a guadagnare poi alla fine sia il sistema Italia, e comunque è quello che assolutamente sta facendo il CNR. Infatti, presidente, il CNR è stato, diciamo, coinvolto in questo enorme progetto proprio perché è in prima linea sulla ricerca su questi temi. Però forse per chi avesse perso un po' i fili di quello che è stato il dibattito di questo mese, dobbiamo dire che è stato un po' tutto sollevato da un paio di lettere della senatrice Cattaneo, grandissima ricercatrice, è stata spesso nostra ospite appunto perché fa ricerca sulle neuroscienze, sulle staminali. Però quello che c'è da dire è che c'è questa, diciamo, un po' contrapposizione tra lo Human Technopole, che appunto è guidato tra virgolette dall'IT, che è una fondazione privata però controllata dallo Stato, e poi quelli che sono invece i docenti universitari, tutti quelli che sono gli enti di ricerca, e c'è stato, diciamo, un po' di contrapposizione, un po' di dibattito. Noi per questo le chiederemo di darci il suo parere, perché il CNR in questo caso è un po' sopra queste parti, insomma, è un ente di ricerca esterno al dibattito, ma ugualmente coinvolto in questo grande progetto di ricerca. Allora, diciamo, io appunto vorrei tenermi alto come compete al rappresentante di un ente, forse il più grande e più importante ente di ricerca italiano. Come no? Certo. Ho una stima profonda, ovviamente, della collega professoressa Cattaneo, che peraltro è anche mia siamo consoci nell'Accademia dei Lincei, quindi abbiamo una comunanza di passione e per la ricerca. Non voglio entrare in questo dibattito che, come voi avete detto, un po' si è svolto, diciamo, in forma a volte molto appassionata. Allora il tema lì che c'è sotto è il tema IIT. Allora l'IIT esiste e fa ricerca in una serie lunga, diciamo, di tematiche su cui è attivo anche, magari da prima dell'IIT, diciamo, lo stesso CNR. E queste tematiche non sono solo quelle possibili per lo Human Technopole, ma sono anche tante altre, sono sensoristiche, certo, materiali speciali, eccetera. Allora, la politica che segue il Consiglio Nazionale delle Ricerche è quella di stabilire con l'IT, come lo fa con tantissime altre istituzioni che fanno ricerca, di chiarire in una convenzione quadro che tu fai questo, io faccio questo, facciamo delle cose simili e quindi organizziamo strategie comuni, perché io credo che la cosa di fondamentale importanza per l'Italia non è quella di creare delle gare, delle competizioni, ma di mettere, come dire, a fattor comune tutto quello che si fa mettere, che si può mettere. Allora devo anche dire che nelle sue politiche, soprattutto quelle di reclutamento, l'IT è agevolato dalla possibilità di poter avere una certa elasticità nel reclutamento, perché appunto può operare la quantità di denaro che si può offrire, ma anche e soprattutto la cosa che importa molto nel reclutamento per la ricerca è anche la possibilità di poter procedere tempestivamente. Cioè, molto spesso si perde il ricercatore particolarmente brillante e creativo perché, come dire, non si è in grado di potergli dire: guarda, noi che sono il prossimo 1° novembre, diciamo, ti diamo la possibilità di lavorare. Ecco, devo dire che io non vedrei questa possibilità che l'IT ha e che noi almeno ad oggi non abbiamo sia una cosa per cui bisogna demonizzare l'IT, ma piuttosto l'auspicio è che anche gli enti totalmente pubblici di ricerca possano muoversi con una stessa forma di elasticità. Il 18 prossimo saremo in Bicocca, dove il rettore della Bicocca, la rettrice della Bicocca, il sottoscritto, insieme al ministro Giannini, convochiamo un dibattito, mira proprio a far vedere come la ricerca... Sul futuro della ricerca in Italia? Esatto. È questo il tema. Ma soprattutto per dire come sia una ricchezza, una risorsa, cioè non un costo, sia un investimento. Sulla ricerca italiana declinata in tutte le sue forme, appunto universitari, così la conosciamo molto bene, perché anche gli ascoltatori di Medibus lo sanno, perché la raccontiamo praticamente ogni puntata. No, senta Presidente, quindi lei vede abbastanza bene comunque questo modello dello Human Technopole, che è un modello, diciamo, estraneo un po' alla realtà italiana, però utilizzato in molte realtà che anche lei conosce, europee e tedesche ad esempio. Io devo dire che quello che ha turbato, che turba gli animi, diciamo, che in qualche maniera la politica, mettiamola così, abbia suggerito un tema, un'iniziativa, un'avventura con visione, è quello che succede in tutte le parti del mondo, perlomeno dove si fa ricerca super innovativa, no? L'idea di dire, diciamo, noi vogliamo partire con questa avventura ha assolutamente il pregio generale ma fondamentale, di creare una situazione di accumulo di risorse, no? La ricerca italiana soffre certamente di penuria di fondi, di quantità che non è sufficiente, ma soprattutto soffre di una scarsa qualità di come questi fondi vengono distribuiti. E l'aspetto positivo, se volete, dello Human Technopole è che qualcuno abbia detto: bene, a noi Italia interessa fare un'avventura in questo campo. Ricerca su questo, ok. Grazie Presidente, vediamo come si evolve. Però, buon lavoro davvero. Buon inizio. Si muoverà tutto benissimo, perché io sono ottimista. Va bene, questo sono è importante. Tutte le risorse, i giovani, gli anziani, tutto va. Va bene. Buon arrivederle, lavoro. Buon lavoro. E adesso ci dicono cosa succede con il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che bel nome per un personaggio decisamente antipatico, sgradevole. Sì, anche perché il nome è Xylella, e ne abbiamo già parlato, ma il cognome, che non è il cognome, ma il nome scientifico, è Fastidiosa, quindi quello è un po' meno carino. Un po' di coerenza. No, allora, a parte gli scherzi, noi di Xylella ci siamo già occupati, però era un po' di tempo fa, quando ancora non era scoppiato il caso che, insomma, adesso è stato un po' agli onori delle cronache, purtroppo, perché è diventato anche un caso in cui è entrata la magistratura. Un'altra grana. Ecco, allora però noi abbiamo aspettato, insomma, a darvi degli aggiornamenti perché non c'erano delle rilevanze scientifiche che adesso sono arrivate. Nel senso che ci sarebbe uno studio, non ci sarebbe, ma c'è uno studio dell'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, di cui adesso vi vogliamo parlare e che cerchiamo di capire in che modo cambierà un po', speriamo, le sorti di questa brutta vicenda. Perché proprio se lo fosse dimenticato, insomma, Xylella è quella brutta bestia che attacca gli ulivi. Sì, sì, sì, è proprio un batterio che appunto prolifera nella linfa, nei vasi delle piante, e in particolare ha colpito gli ulivi del nostro, della nostra Puglia, del Salento in particolare. E proprio in Salento andiamo adesso da Anna Rita Longo. Ciao Anna Rita, benvenuta a Mebius. Ciao agli ascoltatori di Mebius. Ciao, ciao. Anna Rita, tu, se ti diamo del tu perché sei una collega, sei giornalista di scienza, stai seguendo un po' il caso di Xylella per Le Scienze e per altre testate, e poi sei salentina, quindi la cosa ti sta particolarmente a cuore, no? Sì, si può dire che ho la Xylella sul collo praticamente, in tutti i sensi, come giornalista e come salentina. Ecco, allora diamo a te un po' l'onere di raccontare la vicenda, cioè da quando è venuta fuori tutto il disastro, cioè ci si è resi conto che alcuni ulivi si stavano completamente disseccando, a quando adesso siamo sotto, diciamo, la magistratura che ha sequestrato gran parte degli ulivi. La questione Xylella in realtà non la possiamo collocare in maniera precisissima nel tempo, perché non sappiamo quando questo patogeno sia arrivato nel Salento. Sappiamo che le prime notizie di disseccamenti risalgono circa al 2008. Il problema è che il sintomo del disseccamento è comune praticamente a tutte le patologie che possono colpire l'olivo, che è una malattia, che è una pianta che di malattie ne ha moltissime. Mm-hmm. Quindi tutto ciò che colpisce l'olivo provoca da principio un disseccamento della fronda. E quello che poi si è riusciti a comprendere è che questa malattia presentava dei disseccamenti veramente seri ed estesi per poter essere collocata nelle cause già note all'olivicoltura. Quindi nell'ottobre del 2013 si è identificato il patogeno che era responsabile di questa malattia, e cioè la famosa Xylella fastidiosa. E si sono fatti chiaramente, il sospetto è venuto perché le manifestazioni che si verificavano sugli olivi ricordavano quelle che in America, per esempio, presentavano altre tipologie di vegetali. Altre specie, sì. Altre specie vegetali, per cui è venuto il sospetto, il tragico sospetto, perché si trattava di un patogeno davvero pericoloso. La certezza è arrivata nell'ottobre 2013, quando si è potuto ufficialmente parlare di Xylella fastidiosa. Che, ahi noi, insomma, provoca un disseccamento molto consistente, cioè l'albero praticamente muore. Nel giro di poco muore, è completamente disseccato. L'albero purtroppo muore di sete, perché i suoi vasi xilematici sono i vasi che portano in circolo la linfa, vengono ostruiti, e a questo punto la pianta va incontro ad un lento deperimento purtroppo inesorabile. Mm-hmm. Allo stato attuale delle nostre conoscenze non si può far nulla, si può soltanto cercare di tamponare e contenere il danno. E quello che si fa nel momento in cui un patogeno da quarantena, perché Xylella fa parte di quei patogeni che vanno immediatamente isolati, quando un patogeno da quarantena entra in un territorio, si può fare razionalmente soltanto una cosa: abbattere. Cercare o di eradicarlo, mm-hmm. cioè toglierlo via dal territorio, oppure cercare di contenere i danni, cioè e confinarlo entro la zona nella quale è arrivato e cercare di farcelo rimanere. Mm-hmm. Purtroppo nel caso della Xylella queste procedure, che erano state chiaramente ordinate dall'Unione Europea, sono state bloccate nel dicembre 2015 con l'ordinanza di sequestro della Procura di Lecce, che ha ordinato che gli ulivi che dovevano essere abbattuti nell'Alto Salento, nella fascia appunto in cui era prevista questa misura di contenimento, dovevano essere sequestrati. Ecco, e questo è il problema, nel senso che fin qui noi eravamo giunti fino a questa cosa, poi è arrivata la magistratura, praticamente sequestra tutto e in qualche modo vieta di eliminare, di abbattere questi ulivi. E per cui perché ha fatto questo e cosa ne è derivato ovviamente? E come mai è andata anche contro un'evidenza scientifica, tecnica? E anche l'Unione Europea. E anche l'Unione Europea. E appunto il discorso nasce dal fatto che c'è stata evidentemente una sfiducia di fondo da parte della magistratura nei riguardi degli scienziati che si sono occupati della questione. O meglio, la magistratura ha abbracciato una tesi che il mondo della scienza ritiene discutibile, ossia che ci sia una controversia scientifica in campo. Non esiste in realtà una vera controversia scientifica, non ci sono dati di scienziati che in questo momento discutono posizioni contrapposte con altri scienziati nel campo della xylella. In realtà la posizione è univoca e concorde, cioè un pericoloso batterio è giunto attraverso il porto di Rotterdam dal Centro America, transitando dai Paesi Bassi, è giunto dalle nostre parti nel Salento, o meglio dalle mie parti, e si è pericolosamente diffuso. Non è un patogeno autoctono come pensano alcuni, cioè non c'è sempre stato nel Salento, non è di antichissimo arrivo, per cui si è evoluto addirittura nel territorio salentino. Il ceppo rimane uno solo, ecco, al contrario di quello che la magistratura ha scritto addirittura nel decreto. Allora, qua la questione è proprio questa, nel senso che la magistratura, diciamo, ha alimentato questa tesi del non siamo sicuri, perché scientificamente non siamo sicuri, perché non si riusciva a valutare quale fosse la causa precisa, cioè alcuni dicevano fosse xylella, alcuni dicevano che magari poteva essere un fungo, altri dicevano che era un ceppo che era arrivato da chissà dove, altri che era sempre stato lì, cioè c'era un po' di confusione, per cui non sapendo né leggere né scrivere hanno sequestrato tutto e hanno bloccato, giusto? Un po' così riassunto malamente. Possiamo dire che effettivamente le tesi complottistiche che sono nel frattempo sorte, vicendevolmente tra l'altro si contraddicevano, sono state un po' in blocco accolte all'interno del decreto di sequestro, che ne riporta un po' una sorta di florilegio, e quello che ne è venuto fuori è stato un provvedimento che almeno nel mondo della scienza si ritiene universalmente poco razionale. Del tutto, ma scusa, e adesso cosa succede? Cioè chi deciderà dove sta la scienza? Perché adesso c'è questo, appunto, questa ricerca che abbiamo anticipato prima, appunto, dell'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, che farebbe un po' luce dal punto di vista scientifico. Adesso la correlazione fra xylella fastidiosa e sindrome del disseccamento rapido dell'olivo è stata stabilita con una ragionevole certezza. Tra parentesi, cioè, è colpa di xylella, giusto? Innanzitutto il disseccamento è colpa di xylella, ma quello che spesso non si dice è che il fatto che il disseccamento sia causa di xylella non è questo che causa la necessità delle misure di contenimento, è già solo la presenza nel territorio salentino di xylella che rende necessario contenerla. Perché il fatto che ci sia un batterio così pericoloso impone che questo batterio sia tenuto a bada, non possiamo consentirgli di viaggiare, per esempio verso quelle produzioni di olio che praticamente sono localizzate nel nord della Puglia, nella zona di Bari, di altissima qualità, e che sono messe veramente in pericolo, ovviamente, dall'avanzata di un batterio che sappiamo essere pericolosissimo. C'è da dare un aspetto anche dal punto di vista sociale, nel senso che ovviamente la popolazione, tutti coloro, insomma anche i proprietari degli uliveti, in qualche modo si opponevano o hanno cercato di opporsi al taglio, all'abbattimento, come dire, un po' coatto, imposto dall'Unione Europea. E anche questo ha inciso, cioè, come dire, l'opinione pubblica poi tu potrai darcene. L'opinione pubblica è stata, l'opinione pubblica purtroppo al momento è più inclina al complottismo, ma probabilmente da questo punto di vista ci si deve un po' tutti interrogare, soprattutto noi che facciamo comunicazione della scienza, su quello che abbiamo fatto per cercare di spiegargli le cose in maniera corretta, anche su quello che hanno fatto per esempio gli enti di ricerca per cercare di fare un lavoro di comunicazione corretta. Noi sappiamo benissimo che in Italia la situazione della comunicazione della scienza è ancora decisamente migliorabile. Sì, non lo sappiamo. Vabbè, ma comunque cerchiamo di fare qualcosa noi. No, la cosa che volevo dirti in conclusione è, Narita, adesso che noi sappiamo che il disseccamento è colpa di Xylella, ok che sono posti sotto sequestro, però la cosa più urgente da fare, cioè a rigor di logica, sarebbe... sarebbe continuare con un piano di contenimento. Un piano di contenimento che probabilmente dovrebbe prevedere anche l'eliminazione delle piante ospite in una determinata zona, però le ultime notizie ci dicono che il nuovo piano che sta per essere avviato e che, di cui si sta discutendo in questi giorni, probabilmente non prevederà assolutamente abbattimenti. Questo ci fa capire come probabilmente ancora la magistratura non ritenga il parere della scienza probante da questo punto di vista. Non è risolta la cosa, è ancora lì. Il vero problema che vedo, non so Narita, dimmi tu, è che comunque le avvisaglie che Xylella si sta allargando e che gli ulivi purtroppo colpiti stanno aumentando. Certo, non ci sono dati al momento pubblicati che ci parlino dell'espansione dell'areale di Xylella nel Salento, quindi possiamo soltanto cercare di fare delle ragionevoli ipotesi, dal momento che, come dicevo, mancano dati pubblicati. Xylella, chiaramente essendo un patogeno molto aggressivo che tende a mutare velocemente, tende ad espandersi velocemente, non può restare fermo mentre la giustizia fa i suoi tempi. Pertanto sì, agire in maniera tempestiva sarebbe ovviamente la cosa più razionale. I tempi della scienza e i tempi della giustizia non hanno, vanno diciamo, una da una parte e una dall'altra. Hanno due dimensioni diverse. E quindi, Annarita, insomma, staremo a vedere. Tu cosa, da osservatrice diretta, cosa ci dici? E devo dire che da osservatrice delle dinamiche sociali salentine in questo periodo non sono molto ottimista sull'evoluzione rapida su una rapida presa di coscienza sul problema. Purtroppo vedo ancora il complottismo andare per la maggiore e le ragioni della scienza finire in una finire per essere considerate anche opinabili. Una buona speranza può venire per esempio dal convegno che si terrà dal 19 al 22 d'aprile presso l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano, nel quale saranno riuniti tutti i più grandi esperti di Xylella provenienti da tutto il mondo, che cercheranno di fare il punto sulle promettenti linee di ricerca che riguardano questo batterio. E però a questo punto la domanda è: se la scienza cercherà di fare il suo lavoro, poi qualcuno l'ascolterà? Ecco, e con questa domanda, insomma, noi ti salutiamo e cerchiamo magari di riaggiornare gli ascoltatori anche alla luce magari di questo grande evento che ci sarà di ricerca nei prossimi giorni in Puglia. Intanto grazie, Annarita, davvero per questo report. Buon lavoro Annarita. Grazie mille. Ciao. Grazie mille a voi. Un giallo, un thriller che purtroppo dobbiamo aspettare. Sì, speriamo che abbia una buona conclusione, però non la vedo molto bene. Non eravamo ottimisti qualche secondo fa, va bene. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao! Ciao!